Sabato 25 febbraio, una nuova diretta da Cosenza. Alle Officine Babilonia, il gruppo ecosociale Malatesta organizza l'incontro Economia e Finanza ai tempi della crisi. Interventi di Francesco Carlizza del gruppo anarchico Cafiero di Roma. Ascoltate alle ore 18 l'incontro e alle 20.30 circa la musica cantautoriale in diretta dalle Officine Babilonia su transizionedifase.org.